messaggi, ovviamente arrivati in occasione anche di questo classico e di Purple con Burn, 13:40. Allora, ancora tantissimi saluti. Saluto Marco, grazie mille. Mamma, quanti messaggi stupendi che stanno arrivando quest'oggi. Qualcuno dice, vi chiudono perché, come dice Finardi, siete una radio libera, ma libera veramente. Toki dice, grazie dell'energia contagiosa che hai sempre regalato. Prego, è sempre stato un piacere. Vorrei dire a quei cervelloni che vi chiudono, che ogni tanto vi ascoltassero. Siamo una marea di rocker. Siamo un mare di... sì, una marea, ciao. Allora, siamo un mare di rocker incazzati, dovrebbero dimostrarvi riconoscenza. Ma no, ma che gli frega. Saluto anche Alan, dice sono ricchissimo e voglio aiutarvi. Questa è la prima frase che vi direi se fossi veramente ricco. Grazie per Burn, ciao Alan. Tra l'altro quando ho letto la prima tua frase ho detto, stavo già prendendo nota del numero, ho detto ma dai, ma vieni, invece no. Saluto anche Elvis64, grazie mille per il tuo suggerimento. Claudio che sta già godendo con Burn. Saluto anche Franco da Milano, Wolf, un bacione. Bruni da Imola dice forza e coraggio, la speranza è sempre l'ultima a morire e chissà che qualcosa non succeda, per ora voglio ancora crederci. La Romagna è con voi, grazie. Il gioco è bello quando dura poco, ma chi cazzo l'ha inventata questa frase? Viva Rock FM. Grande, saluto anche il Tritone di Livorno, dice mi mancherai, ma domani ci sei a Gello? È difficilissima questa trasferta, ci sono veramente non lo so, ci sto pensando, ma più che altro sto cercando di combinare, di incastrare tutte le cose insieme, ma è veramente difficile. Però vediamo. Saluto anche Fra da Firenze, dice su TVR stanno parlando di voi. Ma dai, cos'è? Raccontaci tutto. Berta da Firenze dice grandi Boston, io capisco Fungo, è pieno di gente che vi scrive da Firenze e non conosco nessuno. Non credo sia l'età, io ho 26 anni. Vedi? Saluto anche Carranza da Lucca e manda un messaggio molto lungo, lo leggiamo magari più avanti. Intanto continuiamo. Stanno arrivando talmente tanti messaggi quest'oggi, almeno in questi giorni, ed è una cosa bellissima, ed è per quello che ogni tanto mi incarto, faccio fatica, perché mentre le stai leggendo un messaggio ne arrivano altri, quindi quello che stai leggendo si sposta. Vabbè, cose tecniche. Poi non lo trovi e già io faccio casino da sola, tra parte tecnica, una cosa quell'altra, figuriamoci. È un disastro. Però grazie per tutti i messaggi. Intanto vi lascio con una bellissima canzone dei Volbeat, questa è Sad Man's Tongue. Well, mama told me, son, you better watch out. All those nasty women are gonna rip you down for time. But I got my pocket full of a real tear. And my broken kids are known. From a sad man told. sad man. Hi, this is Lars from Metallica, and you're listening to Rock FM. sono diverse le novità che riguardano i Metallica. L'ultima è che l'album nuovo potrebbe uscire nel mese di settembre. Questa è stata una dichiarazione proprio da parte della band in occasione di un concerto che hanno tenuto a Los Angeles, al quale hanno partecipato proprio all'ultimo minuto. Era una cosa per scopo benefico. Sono arrivati, hanno fatto i loro vecchi classici come al solito. Sti ruffiani, mamma mia. Questi ruffianacci dei Metallica, riascoltati con Nothing Else Matters. 13:52, insieme ancora per pochi minuti. Intanto saluto il buon Carlo. Guarda, noi settimana prossima siamo qui soprattutto il 30 al 31 maggio. Arriva anche questo messaggio: Hi, this is an ascoltatore from Milan and I listen to Rock FM. Che carino, guarda, ancora per poco. You have 1 week left, eh? Saluto Berta da Firenze, dice: Mox è l'unico che mette un po' di prog, sicché la mancanza si sente, ma dopo Burn, ti perdono, anche il new metal. Oggi new metal non è... dici in generale forse, lo so, però Mox c'è alla sera ed è bellissimo, dalle 21 alle 23 è qui da solo, nessuno gli rompe le scatole, arriva con i suoi vinili, mette tutta la musica che vuole, quindi secondo me la sera è meglio come spazio per lui, almeno poi noi non lo vediamo, scherzo. Saluto anche Francesco da Milano, un bacione. Lucy dalla Romagna, che ha ancora problemi per raggiungerci il 30 al 31. Saluto anche Marco da Pisa, saluto anche il Nino della Rock Family. No, dice: bloccato in tangenziale est tra Leinate e Rubattino, per questa macchina mi fate compagnia in attesa del carro attrezzo. Guarda, siamo con te, un bacione. Saluto anche Max da Firenze, dice: speriamo sia una bufala. No, purtroppo no. Giulia Rocker, come ti invidio, dice: domenica è il mio compleanno e oggi mi sono voluta regalare un giorno, ho preso ferie, ho passato la mattina tra sauna, massaggi, massaggio al viso, sono troppo rilassata. Guarda, queste cose ogni tanto vanno fatte, o vanno fatte anche quelle settimane nei posti un po' sperduti, quelli un po' lontani. Sì, ci vuole almeno una bella giornata, massaggi, relax, il silenzio più totale, non pensare a nulla. L'ho fatto, è vero, io quest'estate sono andata in Croazia in un posto, dove sono andata io? Slovenia, grazie Gravelli, e in un posto del genere ho fatto una settimana tutta così, mi sono fatta veramente questo regalo e sono andata in questa sala meravigliosa dove c'era proprio scritto: questa è la sala del silenzio, cioè non potevi nemmeno tirare un ruttino, niente, cioè proprio zero, non potevi nemmeno respirare. Io mi sono seduta, ho spaccato una sedia e quindi ho fatto STREM. Oddio, ho svegliato Gino, no. Però sono riuscita a spaccare una poltrona e ho tutti i vecchietti della sala, eh? Guarda, Gravelli, adesso ti ci mando in onda, ti tiro un vaffanculo di quelli, guarda, se provi a dire ancora una cosa del genere. Non mi devi dire questo, sai che se c'è una cosa che mi fa arrabbiare è quella. Canzone. No, devi ritirare subito quello che hai detto. Posto, perché guarda, è diventata rossa. Infatti. Sapevo di colpirti in questo. Ok. Bravo, se no ti ci mando, eh? Ti ci mando tutti i giorni, ma perché ti voglio bene, dai, lo sai. Tutti i giorni. Ti faccio cadere tutti i giorni, per forza sei sempre lì in mezzo quando mi finisce la canzone. Gravelli è bellissimo perché ti sta finendo la canzone, ti mancano 10 secondi, devi correre, sederti sullo sgabello, prendere la cuffia, accendere il microfono, far partire la base e Gravelli dov'è? Io sì sono in ritardo, Gravelli 2 è sempre in mezzo al corridoio e non si sposta, quindi ogni tanto lo devi... ho il 47 di piedi, quindi. E quindi lo devi spingere, no? Perché sennò non si sposta, solo che quella delicatezza che insomma fa parte del mio personaggio, ogni tanto lo faccio cadere. Dai che ti mancherò, Gravelli, ti mancherò, lo so. Oh, chi ti spinge poi? Chi ti chiama? Oh Gravelli, sono in ritardo, Marco. Marco, non è che 10 euro da prestarmi? Ti mancherò, guarda, credimi. Tanto l'ultima di quest'oggi, fuori sei con te. I was wasting my time trying to fall in love. Disappointment came to me and rooted me and bruised and hurt me. oggi di Morrissey con That's How People Grow Up. Allora, in chiusura, tanti saluti. Innanzitutto volevo salutare Antonio, questo nostro ascoltatore che ha un agriturismo bellissimo in Canto del Fiume. Ed è qualcosa di meraviglioso in Toscana, adesso vicino a Cecina, insomma, la zona è quella. Un posto meraviglioso. A proposito di giornate rilassanti. A proposito di giornate rilassanti, lì è bello, sei proprio fuori dal mondo, silenzio più totale. Poi è bello, vai a comprare le cose buone, il miele, il formaggio. Un po' una vita che a noi milanesi manca, se devo essere onesta. E quindi grazie Antonio e torneremo molto presto. In chiusura saluto anche la Sab, dice non ci posso credere. Sì tesoro, credici. Ma noi, infatti arrivano anche diversi messaggi di ascoltatori che mi dicono ma come fate a stare tranquilli? Nel senso, vi sentiamo in onda? Sì, a parte ogni tanto qualche frecciatina, però siete veramente tranquilli. Insomma, come fate a non essere incazzati? Perché noi siamo un po' dei professionisti, ogni tanto lo siamo, non sempre. E noi non è che non siamo incazzati, io sono incazzata nera, ma non, in vita mia non mai sono stata così nera come in questo periodo. E non avete idea di quello che stiamo passando, forse sì, perché trasmettiamo comunque le nostre emozioni. Però allo stesso tempo non perdiamo tempo a insultare o a sputtanare chi di dovere, perché il danno che ha fatto è enorme e questo lo sanno anche loro, spero, e lo sappiamo benissimo tutti. Quindi tutto torna nella vita, tutto torna, io spero che torni al più presto. Saluto anche Marco, un bacione anche a Flavio, un bacione anche a... Allora, al Bomba, come faremo senza di te? Non lo so. Rockfamily.it, saluto anche il Rinnegatore, dice scusate la curiosità, ma qualcuno di voi si riciclerà, vabbè, insomma, qualcuno di voi sarà in qualche altra radio, vi faremo sapere. Oh amore, non metterlo qua sul mixer. Saluto anche HM da Genova, dice ma lo sapevate che su internet c'è già tutto il demo? No, sto mangiando il microfono. Il demo dell'ultimo dei Metallica, ma saranno felicissimi allora. Saluto anche poi, aiuto, tantissimi messaggi, Marco da Pisa. Troppo da poser chiudere la Rock FM, forse ragazzi ci si vede alla vlog, assolutamente sì. Tanti messaggi, un bacione veramente a tutti. Max è già lì pronto, quindi vi lascio con lui, vi auguro un fantastico weekend e ci sentiamo lunedì per quella che sarà la nostra ultima settimana, però con un sacco di ospiti che cercheranno di rendere questa settimana meno triste, meno pesante a livello emotivo, anche se lo sarà tanto, ma noi abbiamo voi e voi avete noi. Questo sembra un po' il discorso che ha fatto Max una sera ubriaco in un discorso toscano, tipo, noi ragazzi, perché se voi siete qui è perché noi siamo qui, e se noi siamo qui perché voi... Insomma, vabbè, però il senso è quello. A lunedì, un bacio e un buon weekend.